24. La storia. 1944. Tra gennaio e maggio, ad appena 60 km da Roma, si svolge una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale. Per quattro mesi si combatte sul litorale laziale, fra Anzio e Nettuno, tra Cisterna e Littoria, l'odierna Latina. Tedeschi e alleati si fronteggiano su un campo di battaglia che arriva alle porte di Roma. Per gli alleati la posta in gioco è la liberazione della capitale. Per i tedeschi, invece, si tratta di mantenere le posizioni acquisite e di respingere l'avanzata del nemico. Ma quegli eserciti sono composti da uomini, giovani soprattutto, fra i 18 e i 30 anni. A distanza di anni, quattro sopravvissuti hanno deciso di raccontare il momento più drammatico della loro vita. E allora quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la loro storia di testimoni e di sopravvissuti di quella terribile guerra dopo essere sbarcati ad Anzio il 22 gennaio del 44. Edward Grace, tenente, 29 anni, inglese. Sbarcato ad Anzio la notte del 22 gennaio 1944, alla testa di un plotone di fanteria scozzese. Sentimmo un tedesco che urlava: «Otto, sto morendo!» Poi la sua voce si fece sempre più debole, fino a che non la sentimmo più. Subito dopo arrivò l'ordine: «Qualunque cosa accada, i vostri plotoni dovranno attaccare!» John Shirley, sergente, 19 anni, americano. È stato mandato con il suo reggimento a sostegno delle forze alleate sbarcate ad Anzio. È uno dei protagonisti della battaglia dello sfondamento del fronte tedesco. E in quella trincea uccisi il mio primo nemico. Dall'altra parte della barricata, le forze tedesche. Ormai in ritirata dal sud, ma decise a difendere le loro posizioni fino alla fine. Tra loro il sottufficiale Wilhelm Felten, 19 anni. Poi ad un tratto sento un colpo al torace che mi scaraventa a terra. Mentre uno dei miei compagni continua a sparare, l'altro viene a soccorrermi e io gli faccio: «Niente, niente, tu pensa a tenere lontani gli inglesi, se ci tirano una bomba a mano siamo spacciati tutti». Ma insieme ai tedeschi a combattere inglesi e americani sono anche soldati della Repubblica Sociale Italiana. Fra loro il volontario Pio Filippani Ronconi, sottotenente, 24 anni. A Salò mi sono arruolato nel primo reparto germanico che mi fosse passato sotto il naso. Quattro storie contrapposte, quattro storie diverse, quattro memorie che si incrociano per tornare a quel lungo inverno del 1944, rivissuto attraverso le loro parole e le loro drammatiche storie personali. Sopravvissuti alla guerra, le loro vite avrebbero conosciuto percorsi ed esperienze diverse, ma quei momenti sarebbero restati per sempre nella loro memoria. Questa è la storia della loro guerra. Quello che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia della loro guerra, di quei quattro ragazzi di allora, ma anche di tutti quelli inglesi, tedeschi, americani, italiani che come loro, tra il gennaio e il maggio del 44, combatterono la grande battaglia di Anzio. 22 gennaio 1944, ore 2 del mattino. Ha inizio lo sbarco di Anzio. Nome in codice, Operazione Shingle. Forze britanniche e statunitensi, provenienti dall'Italia meridionale, attraccano al largo di fronte al piccolo porto turistico di Anzio, a poche decine di chilometri da Roma. Da tempo ormai i tedeschi sono attestati in difesa sulla linea Gustav, una formidabile linea difensiva che va dall'Adriatico al Tirreno, tra Campania e Lazio. Con lo sbarco di Anzio, gli alleati sperano di cogliere i tedeschi di sorpresa, in modo da aggirarli e conquistare rapidamente Roma. Subito dopo lo sbarco, mentre la fanteria costituisce la testa di ponte, un reparto di Rangers americani occupa il porto. Alla terza divisione americana viene assegnata la conquista della cittadina di Cisterna. Agli inglesi, invece, il compito di catturare lo snodo ferroviario di Campoleone, a pochi chilometri da Roma. Eravamo partiti da Napoli. Dopo un lungo viaggio ci fermammo a circa 2 miglia dalla costa per il trasbordo sui mezzi da sbarco. Era il tenente inglese Edward Grace. A poche ore dall'inizio dello sbarco sono già a terra 36.000 uomini, 3.000 veicoli e grandi quantità di rifornimento. Inglesi ed americani non hanno trovato pressoché resistenza da parte delle truppe tedesche. Dopo il difficile sbarco a Salerno, gli alleati si aspettano che le difese tedesche li accolgano con il fuoco dei cannoni e delle armi leggere della fanteria. È un timore che si rivela infondato. Ad Anzio, di tedeschi, non c'è traccia. Paradossalmente, questo preoccupa moltissimo gli alleati. Dove sono i tedeschi? Perché non succede niente? La verità è che le nostre forze militari erano agli sgoccioli. Un esempio, una nostra compagnia che normalmente aveva 100-120 uomini, adesso si ritrovava a occhio e croce con 3 sottufficiali e 10 soldati. Avete sentito il sottufficiale tedesco Wilhelm Felten. A 6 mesi dallo sbarco alleato in Sicilia, le forze tedesche in Italia sono stremate e numericamente irrisorie. Scriverà poi il generale Westphal, capo di stato maggiore di Kesselring, comandante in capo delle forze tedesche in Italia. Al momento dello sbarco a sud di Roma, in quel settore, a parte le batterie costiere permanenti, noi tedeschi disponevamo soltanto di 2 battaglioni di fanteria. Quel giorno non avevamo nient'altro nelle vicinanze da opporre al nemico. La strada per Roma era aperta. Dunque la strada per Roma è aperta. Gli alleati avrebbero tutti i vantaggi. Sono molto più numerosi dei tedeschi che combattono nella zona, possono giocare con l'elemento sorpresa e hanno ovviamente l'appoggio della popolazione civile. Eppure per arrivare a Roma gli alleati impiegheranno 4 mesi. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia dello sbarco ad Anzio delle truppe alleate. Una volta sbarcati, gli alleati impiegano 4 mesi ad arrivare a Roma. Lo stesso Churchill scriverà: pensavo di lanciare sulla spiaggia di Anzio un gatto selvatico e invece mi ritrovo con una balena arenata. Insomma, perché gli alleati ci misero così tanto ad arrivare da Anzio a Roma? Fu un errore strategico o una scelta deliberata? E se deliberata, dovuta a che cosa? Che cosa è successo per davvero ad Anzio? Forse la risposta a questi interrogativi che da decenni dividono gli storici è nel racconto di chi ad Anzio c'era. Nel 1944 il tenente Edward Grace, 29 anni, inglese, comanda un plotone del 6° battaglione del reggimento Gordon Highlanders. Dopo aver combattuto in Tunisia, è stato trasferito alla 1ª divisione di fanteria, appunto in previsione dello sbarco in Italia. Nella battaglia di Anzio, il suo reggimento viene decimato. È l'ultimo ufficiale superstite in grado di raccontare la notte di quel 22 gennaio. Pensavamo che saremmo stati accolti da un forte fuoco di sbarramento da parte dei tedeschi. Il nostro mezzo da sbarco toccò il fondo sabbioso, abbassarono le rampe e io saltai nell'acqua che mi arrivava al torace. Avanzammo più in fretta possibile verso la spiaggia, sempre temendo che da un momento all'altro le mitragliatrici tedesche aprissero il fuoco contro di noi. E invece non successe assolutamente nulla. Un silenzio assoluto. Dopo aver avanzato per 4 chilometri dal mare, gli uomini di Grace iniziano a scavare con grande difficoltà le trincee. Il freddo della notte invernale e le divise bagnate dalle gelide acque del mare impediscono loro di procedere speditamente. A un certo punto arriva l'ordine di fermarsi. Il generale Lucas, a capo del 6° corpo d'armata alleato, vuole attendere l'arrivo delle divisioni di riserva. Ma Grace e i suoi uomini non lo sanno. Si chiedono anzi perché, vista la mancanza di resistenza tedesca, non arrivi l'ordine di avanzare. Verso la fine del 1943 l'avanzata alleata nell'Italia del Sud si era impantanata. I tedeschi avevano eretto una linea difensiva molto efficace, la linea Gustav, e gli alleati avevano enormi difficoltà ad avanzare. Bisognava fare qualcosa. Si decise perciò di tentare uno sbarco qui, lungo la costa, ad appena una 50ina di chilometri a sud di Roma. L'idea era di sbloccare la situazione di stallo creatasi sulla linea Gustav, fare in modo che la guerra in Italia tornasse ad essere una guerra di movimento e arrivare a Roma più in fretta possibile. Per questo motivo, il 22 gennaio, gli alleati sbarcarono ad Anzio. Si trattò di una decisione difficile. Esistevano forti divergenze d'opinione fra gli inglesi da una parte e gli americani dall'altra. Erano soprattutto i primi, e Churchill in particolare, ad essere favorevoli a un proseguimento della strategia mediterranea in Italia. Churchill credeva fermamente nell'idea del ventre molle. A suo parere, gli alleati potevano sconfiggere i nazisti, magari anche pagando un prezzo più basso, attaccando il Reich tedesco in periferia. Ma il ventre molle si rivelò tutt'altro che molle. Avete sentito Thomas Rowe dell'Accademia Diplomatica di Vienna? Pensavano di dover affrontare il ventre molle del Reich. Invece gli alleati si trovano di fronte a tedeschi agguerriti e pronti a difendere l'Italia occupata, metro per metro. Per gli alleati quei primi giorni di incertezza risultarono fatali. La reazione dei tedeschi allo sbarco di Anzio, infatti, è immediata e massiccia. Fra il 24 e il 28 gennaio, il capo delle forze tedesche in Italia schiera intorno ad Anzio, fra Ardea e Littoria, reparti provenienti dai fronti di Cassino, dal nord Italia, dalla Francia e dai Balcani. Tra questi, le divisioni scelte Hermann Göring e la quarta divisione paracadutisti. In tre giorni, Kesselring mette insieme 260.000 uomini contro i 200.000 inglesi e americani presenti nella testa di ponte. Tutti i tentativi degli alleati di avanzare verso l'interno e verso nord, cioè verso Roma, vengono respinti senza alcuna difficoltà. Sul finire di gennaio convergono sul fronte di Anzio migliaia di truppe tedesche. Decisero di difendere il territorio italiano metro per metro. Nel novembre del 1943 Kesselring era riuscito a far prevalere presso Hitler la sua linea: difendere ogni angolo del territorio italiano. Questa linea era l'opposto di quella di Rommel, che propendeva invece per un rapido abbandono dell'Italia da Roma in giù. Avendo prevalso Kesselring poche settimane dopo la perdita di Napoli, era stato possibile in poco tempo consolidare il fronte appena più a nord. E questo fu l'inizio di una guerra di posizione che permise ai tedeschi di mantenere il controllo dell'Italia per ben 20 mesi, anche quando il territorio effettivamente occupato dai tedeschi si ridurrà sempre di più. Era Lutz Klinkhammer dell'Istituto Storico Tedesco di Roma. La controffensiva tedesca ha successo. Per gli alleati il contrattacco di Kesselring è devastante. La marcia alleata si arresta. Le azioni militari, sempre più cruente, appaiono agli occhi dei soldati sempre più inutili. Quella che doveva essere una battaglia lampo, coronata dall'avanzata trionfale in una Roma liberata, si è trasformata in una logorante guerra di posizione. Nelle sette settimane che seguono, in continue schermaglie e combattimenti, le forze alleate vengono massacrate. Agli alleati contro i tedeschi servono forze fresche, giovani di leva. John Shirley, lasciata la sua fattoria in California, viene arruolato nel 15° reggimento di fanteria, a 19 anni. Arrivai ad Anzio all'inizio di aprile del 1944 con il grado di sergente. Venni assegnato alla compagnia I della terza divisione. In quel periodo il fronte era abbastanza tranquillo, ma ci si stava già preparando per quella che sarebbe stata la grande offensiva del 23 maggio. A pochi giorni dal suo arrivo, John Shirley si trova nel settore sud del fronte, in un fossato a poche decine di metri dalle linee tedesche. Per Shirley è il momento del battesimo del fuoco. Sotto il fuoco dei tedeschi, strisciai verso il fronte per circa 20-25 metri, finché arrivai ad un grande fossato, uno di quei canali che i tedeschi usavano per la difesa anticarro, un canale di drenaggio. Vedo un mio compagno, Flash, che esce fuori dalla trincea, seguito da un altro compagno della squadra. Nessuno gliel'aveva ordinato. Allora sono uscito anch'io. Ero il terzo. Ma L'uomo davanti a me fu colpito da una pallottola. Lo rivoltai e vidi che era morto. Se fosse uscito dal fosso per secondo, probabilmente sarebbe toccato a me. Strisciai ancora e arrivai dietro un cumulo di macerie. Il fucigliere mi raggiunse. In quel tratto non c'erano tedeschi, era una trincea zigzag. E in quella trincea uccisi il mio primo nemico. Poi la trincea faceva una curva a sinistra. Proseguì e vidi un tedesco dietro una mitragliatrice, una MG-42 che stava sparando, e io uccisi il mio secondo nemico. Ricaricai il mitra e mi avviai verso la seconda linea di trincee tedesche. Un tratto vidi una bandiera bianca, poi ancora un altro pezzo di stoffa bianco e delle braccia alzate. Per i tedeschi era stata una mattinata terribile e avevano deciso di arrendersi. Inizi di febbraio. Ecco cosa scrive il generale alleato Wilson nel suo rapporto. La testa di ponte è circondata e le nostre forze che si trovano all'interno di questo cerchio non sono più in grado di avanzare. Ma gli alleati, per avanzare, devono prima conquistare Campoleone, a 40 chilometri da Roma. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia dello sbarco di Anzio, attraverso le voci di quattro protagonisti sopravvissuti. E due di questi nella battaglia vicino a Campoleone tra le truppe tedesche e quelle alleate si trovarono faccia a faccia. E sono il tenente inglese Edward Grace e il sottufficiale tedesco Willem Velten. Velten, figlio di un agricoltore della Renania, viene chiamato alle armi a 18 anni. Dopo un breve periodo di addestramento in Francia, la sua divisione viene trasferita in Italia. Promosso sottufficiale, Velten viene assegnato alla 65esima divisione di fanteria. Il suo plotone ha il compito di aggirare le posizioni alleate, portarsi alle loro spalle e tagliar loro la via di fuga verso il mare. Da Aprilia, appunto, abbiamo attaccato in direzione Anzio Nettuno. Qui però l'offensiva si era arrestata perché inglesi e americani si erano saldamente posizionati lungo il canale che sta qui dietro. Dai reparti avanzati inglesi, fra i quali il plotone comandato dal tenente Edward Grace, dipendono le sorti della testa di ponte alleata. Dal comando arriva l'ordine. Gli uomini devono resistere ad ogni costo. Alla fine, il numero dei caduti sarà talmente alto che il luogo verrà ricordato come la fattoria degli orrori. Arrivammo qui il 4 febbraio, dopo una lunga avanzata e dopo alcuni giorni di duri combattimenti. Quella lunga marcia ci aveva stremato. Avevamo dormito pochissimo, ma per fortuna c'era un suonatore di cornamusa che ci teneva su il morale. Poi quella notte cominciò l'attacco tedesco. Per prima cosa subimmo un intenso fuoco di sbarramento da parte dell'artiglieria. Noi eravamo protetti nelle nostre piccole trincee, nonostante fossero piene d'acqua. Ci fu qualche vittima, come avevamo previsto. Le granate che ci piovevano intorno avevano un effetto devastante su tutti noi. Poi, d'un tratto, il fuoco dell'artiglieria cessò e dopo un breve silenzio cominciarono a sparare le mitragliatrici e i fucili. quando vedemmo i traccianti che avevano cominciato a sorvolare le nostre teste, capimmo immediatamente che i tedeschi stavano iniziando la vera grande offensiva. Allora dissi agli uomini del mio plotone: state fermi, sparate soltanto all'ultimo momento. E nonostante fosse notte fonda, a poco cominciammo a intravedere la fanteria tedesca che si avvicinava. Erano solo ombre nel buio. Quando furono arrivati a un centinaio di metri da noi, detti l'ordine di fare fuoco. Sparando tutti contemporaneamente, facemmo un gran fracasso. A un certo punto sbirciola fuori e vedo un nugolo di inglesi uscire dalle trincee. La cosa assurda era che la nostra mitragliatrice non sparava neanche un colpo. Allora, strisciando sulla pancia, sono scivolato nella trincea bassa. E lì ho trovato rannicchiati i miei due compagni, due ragazzi di 18 anni, uno di Vienna e l'altro di Linz. Erano pallidi come la morte. E io gli urlo: ma perché non sparate, idioti? E uno mi rispose: si è inceppato il nastro del caricatore. E allora ho afferrato la mitragliatrice e l'ho piazzata sul bordo della trincea mettendola in vista. E gli inglesi si sono subito messi al riparo. Poi ad un tratto sento un colpo al torace che mi scaraventa a terra. Mentre uno dei miei compagni continua a sparare, l'altro viene a soccorrermi e io gli faccio: niente, niente, tu pensa a tenere lontani gli inglesi, se ci tirano una bomba a mano siamo spacciati tutti. Era successo che nel taschino tenevo il mio libretto militare, un santino e uno specchio di metallo, e il proiettile mi aveva colpito proprio lì. Avete sentito il sottufficiale tedesco Wilhelm Felten. Ma il contrattacco tedesco non ha successo. Le incessanti piogge, che hanno ridotto strade e campagne in un mare di fango, non consentono agli uomini di Kesselring di sfruttare il momento favorevole. Dal mare, per di più, la marina alleata bombarda incessantemente le postazioni tedesche. Il generale Lucas decide di attestarsi a difesa della testa di ponte. Si crea così una nuova linea tra il fiume Moletta a nord di Anzio e il canale Mussolini a sud. Intanto a Cisterna, a sud del fronte, tre battaglioni di Rangers americani cadono in un'imboscata attesa loro dalla divisione Hermann Göring. Dei tre battaglioni americani riescono a rientrare nelle proprie linee soltanto sei uomini. Migliaia di prigionieri americani vengono portati a Roma e fatti sfilare per le strade della capitale. Per gli alleati è una clamorosa sconfitta psicologica, ma è anche la fine della prima fase dell'operazione Shingle. Tutto il vantaggio della sorpresa è ormai vanificato. Proprio questo stallo nell'avanzata alleata crea una recrudescenza della repressione nazista. Gli oppositori antifascisti vengono rinchiusi nei campi di concentramento. Nelle retrovie si intensificano le azioni contro i partigiani. Tutto questo può accadere perché la situazione al fronte è stabile, perché le truppe alleate non riescono a sfondare. Avete sentito Lutz Klinkhammer dell'Istituto Storico Tedesco. Dunque la situazione di stallo degli alleati dà nuova forza alla repressione nazista. A Roma i gruppi di partigiani vivono con ansia l'attesa di una liberazione che sembra non arrivare mai. Roma, 1944. Lo sbarco di Anzio lascia sperare che presto anche la capitale sarà libera. La città diventa il cuore delle operazioni dell'OSS, il servizio segreto americano. A coordinare le azioni con i gruppi partigiani è Peter Tompkins. La parola d'ordine è soltanto una: sabotare il nemico, bloccargli le vie di ritirata, colpirlo ovunque. Ce ne parlano il partigiano Mario Fiorentini e poi lo storico Alessandro Portelli. All'indomani dello sbarco di Anzio, io che comandavo il GAP centrale Antonio Gramsci, insieme a due partigiani del mio gruppo, ci incontrammo al ghetto, nelle vicinanze della Fontana delle Tartarughe, con Antonello Trombadori, comandante dei GAP centrali, e con Giorgio Labò, artificiere. Dopo qualche giorno il pericolo sembrò sventato perché la situazione evolse in maniera impensata. Gli alleati non arrivarono a Roma e allora venne deciso di sciogliere i gap centrali e di mandarci alla periferia della città. Quando arriva la notizia dello sbarco di Anzio, naturalmente l'aspettativa da parte di tutta la città di Roma è che gli alleati arrivano da un momento all'altro. Da quel momento iniziò per noi una fase estremamente drammatica, perché noi per 20 giorni forse attaccammo in continuazione, tutti i giorni. Noi abbiamo fatto azioni continue di giorno e di notte. Io non conoscevo il coprifuoco, la notte andavo in giro armato, cioè, e tante azioni abbiamo fatto. Il mese di marzo è stato un mese terribile, un mese drammatico, un mese pieno, eccetera, eccetera. Ciò che io ricordo soprattutto è questo. L'ordine che ci veniva, colpite duro i tedeschi, perché le nostre truppe alleate, e questo ci veniva dagli alleati, c'erano due missioni alleate, oltre a Peter Tompkins, c'erano le missioni Chicago, Chicago e Texas, due missioni anche che erano in contatto con noi e addirittura fornirono a noi delle armi, eccetera, e poi avevamo stabilito due campi di atterraggio, uno al Monte Gennaro e l'altro nella zona empolitana, diciamo così, e allora ci dicevano dovete colpite duro. I tedeschi insomma sono ben decisi a resistere, anche se ormai è ben visibile a tutti che per loro la guerra è finita, è perduta. Per gli alleati, d'altra parte, liberare Roma ha un significato simbolico ma anche strategico. Roma, infatti, dopo l'8 settembre è il vero e proprio presidio delle truppe di occupazione nazista in Italia. Tutto questo in stretta collaborazione con la resistenza sociale di Mussolini a Salò. La Repubblica Sociale tenta di costituire un vero e proprio esercito regolare, ma fallisce. Il governo di Salò allora ricorre all'arruolamento forzoso e, naturalmente, ai volontari. Subito dopo l'8 settembre, 700.000 soldati dell'esercito italiano furono deportati in Germania, rinchiusi in campi di internamento e nella stragrande maggioranza utilizzati per ogni tipo di lavoro forzato. Hitler voleva punire i soldati italiani per il presunto tradimento del re. Non li considerava più affidabili e quindi non intendeva utilizzarli in battaglia. Ma c'erano ancora fascisti affidabili che potevano essere impiegati in combattimento. In particolare, già a partire dall'agosto 43, Himmler e il suo stato maggiore avevano cercato di reclutare i fascisti come forze ausiliarie. Anche nei campi di internamento furono cercati fascisti affidabili, appunto in vista della creazione di un reparto italiano di SS. All'inizio queste forze dovevano essere impiegate solo nella lotta contro i partigiani, contro i comunisti in Italia del Nord e per il mantenimento dell'ordine pubblico. Successivamente però queste divisioni furono impiegate anche in battaglia, al fronte, sebbene normalmente solo in piccole unità e sempre sotto stretto controllo tedesco. Questa collaborazione in combattimento è stata molto importante per i tedeschi perché, come disse cinicamente uno dei capi delle SS, per ogni volontario straniero delle SS che cade, non piange nessuna madre tedesca. Pio Filippani Ronconi, di famiglia romana, nel 1942 parte volontario per l'Africa settentrionale con i granatieri di Sardegna. Rientrato in Italia per malattia contratta al fronte, dopo l'8 settembre si arruola nella legione SS italiana. Molti mi hanno domandato per quale motivo mi sia arruolato in un reparto germanico, il primo che mi è passato sotto il naso. Io volevo dimostrare, magari inconsciamente, che noi italiani non eravamo né vigliacchi né traditori, bensì che noi italiani eravamo capaci di sacrificarci per un'idea. Quello che mi interessava a me era quello di continuare a combattere. A Salò mi sono arruolato nel primo reparto germanico, che mi fosse passato sotto il naso. E questo era un plotone della divisione Reichsführer, mi pare, SS, col quale entrai in una dimensione totalmente differente. Intanto i tedeschi stavano organizzando nel nord Italia una divisione che era una divisione di assalto destinata a combattere nel sud. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia dello sbarco di Anzio e degli ultimi terribili anni della Seconda Guerra Mondiale. Il fenomeno dei volontari stranieri nelle SS è esteso a tutta l'Europa. Si arruoleranno in 350.000, tra loro russi, francesi, olandesi, belgi e scandinavi, e anche italiani, tra 6 e 10.000 circa. Inverno 1944. Nelle campagne pontine gli alleati procedono a fatica. Aprilia, Cisterna, Ardea, piccoli paesi che diventano il teatro di altrettante battaglie. Roma è sempre più lontana. I 60 chilometri si trasformano in settimane e poi in mesi di attesa. I comandi militari alleati tentano tutte le strategie per sfondare le linee avversarie, mandando spesso i propri uomini al massacro. Il nostro generale ebbe l'idea di organizzare speciali squadre d'assalto trasportate su slitte da combattimento. Si trattava di slitte corazzate costruite dalla compagnia di ordinanza. Le squadre erano cinque squadre di 12 uomini ciascuna, quindi in tutto 60 uomini, 5 carri armati e le slitte sotto il comando di un tenente. Al di là del fossato c'erano il comando tedesco, un edificio fortificato e poi una trincea avanzata. Entrammo nel fossato trovando i superstiti delle ondate della fanteria appiedata. Le slitte non erano servite a niente perché ci avevano portato alle spalle della nostra fanteria che era rimasta inchiodata lì. Cosa potevamo fare noi in 60 dal momento che non c'erano riusciti in 200? Avete sentito il racconto del generale americano John Shirley. Anche l'esperimento delle slitte è fallito. Tra i compagni di Shirley si salvano in pochissimi. L'Agro Pontino è ormai un unico campo di battaglia. La vita dei soldati si svolge in condizioni sempre più dure, dall'una e dall'altra parte. E le popolazioni civili? Nella memoria dei pochi che non sono sfollati, il fuoco della battaglia si unisce nel ricordo alla tragedia dei bombardamenti alleati, come quello che rade al suolo Cisterna. Poi dopo lo sbarco degli americani, la cosa si fece un pochino pericolosa per noi, in quanto c'erano continui bombardamenti, depositi di munizioni in tutto intorno sparsi per la campagna. Noi abitavamo proprio lì in mezzo a queste munizioni. Gli americani ci portarono via. E la prima tappa fu qui per un certo smistamento, ci ospitarono qui i frati e la chiesa era piena, proprio piena piena, perché tutti ci portarono via, tutti, rimasero solo i militari in paese. Da qui ci portarono al porto e ci imbarcarono su delle navi americane, navi da guerra. A Napoli ci ospitarono un istituto, si chiamava il Carminiello, e stemmo lì parecchi giorni, un 5, 6, 7 giorni più. Da lì ci rimbarcarono su una nave mercantile e ci portarono a Siracusa, una nave francese. E era addetta al trasporto di pecore e banane. Per l'occasione trasportava noi. Era Pia Rossi, abitante di Anzio. Dopo quei giorni terribili del marzo del 44 sono i giorni di Via Rasella, della strage delle fosse ardeatine. I tedeschi resteranno altri 2 mesi. E anche a sud, sulla linea Gustav, con il tremendo bombardamento dell'abbazia di Montecassino, i tedeschi continuano a difendere il fronte che si trova in una situazione di stallo. Per gli alleati è indispensabile trovare una soluzione. Ce ne parla Thomas Roe dell'Accademia Diplomatica di Vienna. Nella primavera del 1944 i fronti si trovavano in una situazione di stallo. Il comandante in capo alleato, il generale Alexander, cercava una soluzione. Si decise allora di lanciare una massiccia campagna aerea per annientare le forze tedesche sull'Appennino meridionale. L'operazione prese il nome di Stranglehold, operazione strangolamento. Fu la più vasta campagna di bombardamenti che si fosse mai vista nel teatro di guerra del Mediterraneo. L'operazione Stranglehold fu in parte un successo e in parte un fallimento. Fu un fallimento perché i tedeschi non si ritirarono, ma fu un successo perché compromise seriamente le loro linee di comunicazione e di rifornimento. Ma torniamo alla battaglia di Anzio. Di fronte alle linee americane, nel settore sud del fronte, sono schierati i reparti italiani della Repubblica Sociale di Salò. Il sottotenente Pio Filippani Ronconi è al comando di un reparto d'assalto, composto da tedeschi e italiani, che ha il compito di effettuare una ricognizione dietro alle linee nemiche. Ci trovavamo in quel periodo accanto a Borgo Flora e uscì per una pattuglia assieme a un gruppo di di italiani e due tedeschi. Arrivammo ai reticolati, che con grande pena riuscì a spostare, e entrammo prima nel Niemands Land, la terra di nessuno, e poi entrammo proprio nel caposaldo americano. Nel cammino di ritorno fummo sorpresi da una fucilata, seguita poi dal solito scroscio delle mitragliatrici. Ora, avevo spiegato proprio il pomeriggio stesso, nell'addestramento dietro le linee, avevo spiegato che una cosa positiva avevo imparato dagli alleati e in particolare dagli australiani in Africa dove avevo combattuto, e cioè che non si lascia nulla nelle mani del nemico, tantomeno il corpo di un giovane eroe diciottenne. E improvvisamente, dopo chissà quanto tempo che trascinavo questo corpo, in parte me lo portavo sulle spalle, mi resi conto che il sole era sorto e io stavo esattamente di fronte alle linee americane. E pensai che sarei morto perché mi avrebbero sparato. E invece passarono i minuti e nessuno mi sparava. Un silenzio irreale dominava la linea. Maggio 1944. Il generale Alexander lancia l'operazione Diadem, Diadema, per sfondare la linea Gustav. Il quartier generale di Kesselring a Frascati, sulle colline che sovrastano il campo di battaglia, viene ridotto in polvere. Le truppe alleate attraversano i fiumi Rapido e Garigliano. Ma l'ultimo capitolo della battaglia per Roma si gioca tutto sulla rivalità fra due generali alleati, l'inglese Alexander e l'americano Clark. Tra i due, infatti, si svolge una lotta senza esclusione di colpi per chi entrerà per primo nella città eterna. It's a controversy Le decisioni assunte dal generale Clark nelle fasi finali della campagna d'Italia sono ancora oggi oggetto di discussione per gli storici. All'ultimissimo momento, il 25 maggio, Clark decise di attaccare Roma senza curarsi di bloccare la via di fuga verso il nord Italia del decimo corpo d'armata tedesco ormai in rotta. Così facendo, Clark avrebbe potuto intrappolare l'esercito tedesco. Invece decise di compiere quello che considerava un rapido balzo verso Roma. Il suo obiettivo era la capitale. Clark voleva essere a tutti i costi il liberatore di Roma. E per questo motivo fece il colossale errore di lasciar fuggire il grosso del decimo corpo d'armata tedesco. E il 4 giugno del 44, nelle prime ore del pomeriggio, le truppe del generale Clark entrano a Roma. Dallo sbarco di Anzio sono passati più di 4 mesi per la città e la fine di un incubo. La battaglia di Anzio è costata la vita a molti uomini. A conti fatti, lo sbarco di Anzio si rivela una prova generale per il grande sbarco sulle coste della Normandia, più noto come D-Day. Ad Anzio si decisero anche le sorti della guerra in Europa e si crearono anche le premesse per la liberazione di Roma, ma la guerra in Italia sarebbe durata ancora per molti mesi.